Allora la roba le vedeva ben proprio, le quattro stagioni, no? Le famose quattro stagioni, le era bellissime da vedere. Le era ancora più durate. Così travi, no? Per bruciare, gli ha venuto un tuo demur e gli ha trovato sotto morto. Lei praticamente, no, degli affreschi, sì, no? Quindi fa sulla matta. Le era belle pitturate, me le ricordo, mi pitturate le quattro stagioni, le ricordi le quattro stagioni pitturate? Non si che sa, vive, non era, era... comunque l'era belle, era gli unici, era poi era diverse robette del belle su un castello, allora, ma il praticamente, come si dice, depredato il castello, perché era il porte d'averte, veniva su qui il radar a streccare, scavire, l'ha fatto un po' tutte, Io mi ricordo benissimo le quattro stagioni, che era su delle pitture che erano meravigliose, che era un locale solo e che era quattro pareti. Gli ha scominciato a zoacca le figure con le colle, ma anche con la punta, con le cappelle. Ricordo quel che mi era stato impresso da piccola del castello. Era una sala che aveva solamente allora tre pareti, con le quattro stagioni. Era ogni parete completa pitturà una stagione, quello mi sta sempre impresso, perché era forse la roba più bella allora, perché il castello era in rovina, è molto più ben messo adesso, che ne sta a riparare, sta a raggiustare. E dopo anche quella piazza lì, la piazza centrale dove c'era questa sala, e anche, come si dice, si vede quelle quattro, quelle finestre su in alto, anche nel bella.